che voglio di più di ciò che merito, lo so. E tanto che volevo dirtelo, non ho mai avuto modo. E sei sparita, ma io sento la tua voce sotto la mia pelle. Quando mi guardo allo specchio, come faccio a non trovare niente? Guardo il cielo a desaturarsi, aspettando che passi la pioggia dentro un taxi. Vorrei sfiorarti, vorrei sfiorarti, sfiorarti, sfiorarti. Ma rischierai di ferirti. Tu mi sposi con la gonna corta, falce di luna non ti mostri tutta, però ti spogli perché sei fiore di donna. Sei sparita, ma io sento la tua voce sotto la mia pelle. Quando mi guardo allo specchio, come faccio a non trovare niente?